Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il pastore per questo onore che mi ha otorgato e per la fiducia, soprattutto per la fiducia che lui mi ha dato. Quando lui mi ha parlato e mi ha detto mi piacerebbe che condividesse qualche domenica in chiesa, subito il Signore ha messo nel mio cuore un tema. E ho detto sì al pastore, non perché mi piace essere qua. Come ha detto Sara, sono molto timida, mi piace più parlare con le persone di tu a tu, no? E non essere una persona che di fronte. Però in questi 30 anni che ho di credenti ho imparato una cosa. Quando Dio mette qualcosa nel mio cuore lo devo fare perché è buono, perché Lui lo vuole, perché Lui si vuole servire di me. E ho imparato che questo è stato molto molto buono nella mia vita. Ho sentito che dovevo parlare sulla famiglia, sul modello di Dio per la famiglia. E è stato molto bello anche quando ci stavamo organizzando con Sara, quando le ho detto: Sara, senti, io non so se farò una predica come quella che la Chiesa è abituata a sentire, perché questo non è un palco semplice, la Chiesa riceve ogni domenica delle prediche eccezionali. Lo mio sarà più un condividere, un aprire il cuore, forse raccontare anche qualche esperienza, qualche cosa che a noi ci ha benedetto, qualche cosa che abbiamo imparato come famiglia. Però sento che devo parlare sulla famiglia. E quando parlavamo con Sara, lei mi ha detto: che bello, perché sai che il pastore Stefano che ha predicato questa mattina, lui ha sentito nel suo cuore, è stato guidato da Dio a condividere esattamente di quello. Lui ha parlato sulla famiglia. E per quelli che non sono stati questa mattina, posso vedere le mani di chi non è stato questa mattina? Ok, la gran maggioranza. Allora io vi incoraggio, per favore, andate a vedere la predica del pastore Stefano. Ci ha fatto tanto bene, tanto bene, tanto bene. È così fondamentale questo messaggio, quello che Dio ha per la famiglia è così fondamentale, così importante, che lo dobbiamo ascoltare. E non una volta, più di una volta, perché non c'è altro che riceve l'attacco del nemico più che la famiglia. Dove lui punta, dove lui mette la mira, non so come si dice in italiano, dove lui fa il centro, dove mette il focus, è nella famiglia. Perché? Perché lo fa? Perché lui sa che se noi non abbiamo delle famiglie forti, costituite per bene, allora non avremo neanche una chiesa forte, perché la chiesa è composta da famiglie. E perché altro? Perché la famiglia è stata creata da Dio, è un'invenzione da Dio, non dell'uomo. Non è stato l'uomo che ha deciso un giorno lì all'Eden, ha detto: oh, va bene, mi piacerebbe fare una famiglia, allora cerco una donna, faccio una famiglia. No, è stato Dio che ha creato la famiglia. Lui ha detto: non è buono che l'uomo sia da solo e io farò l'aiuto ideale per lui. E così ha costituito la famiglia. Questa mattina è stato molto, molto importante e vi incoraggio a ascoltare questo messaggio. E io voglio continuare perché è così speciale il Signore. Lui ha messo nel mio cuore lo stesso tema, e voglio continuare un po' più in là. Spero riuscire a farlo. Dio vuole che noi viviamo felici, che noi siamo felici. Il desiderio di Dio è che abbiamo delle famiglie forti, che abbiamo delle famiglie unite, che abbiamo delle famiglie stabili, felici. Questo è il desiderio di Dio. Quando Lui ha creato la famiglia, non l'ha creato per sofferenza, per divisione, per divorzio, per figli abbandonati, non ha creato per quello, non l'ha disegnato per quello. L'anno scorso mio marito ha predicato qua su quello che significa che Gesù sia il Signore delle nostre vite. E lui ha parlato che quella parola Signore non è come nella Bibbia, non si intende come la capiamo adesso, come se l'uso che ha adesso, così Signore Gonzales, il Signore questo, là. No, Signore ha un significato molto, molto profondo e viene dalla parola in greco che è Kyrios. E Kyrios significa massima autorità. Kyrios significa anche il re, significa il padrone assoluto di tutte le nostre cose, delle nostre vite. Kyrios significa che lui è il proprietario. Quando noi diciamo Gesù Cristo è il mio Signore, sto dicendo lui è il proprietario della mia vita. Lui è il possessore di tutto quello che ho, di tutto quello che io sono. Lui è il capo. Quando noi diciamo Gesù Cristo è il Signore, diciamo che Lui è il capo delle nostre vite, che Lui è chi comanda, che Lui è, come si dice oggi, il boss. Tutto quello è Cristo Gesù, tutto quello è il significato di quella parola che oggi noi diciamo Signore. Ma c'è una domanda chiave, una domanda molto molto importante per garantire l'esito e il buon funzionamento della nostra famiglia. E quella domanda è: chi governa nella tua casa? Chi è l'autorità nella tua famiglia? Chi è il capo della tua famiglia? È veramente Gesù? È veramente Lui? O forse noi diciamo sì, Gesù Cristo è il mio Signore, però a casa mia faccio come io penso. Dobbiamo farci questa domanda, me la faccio io per prima. E ogni giorno, non solo una volta, ogni giorno ci dobbiamo fare questa domanda. È veramente Gesù il capo della mia famiglia? È veramente Lui il padrone dei miei figli, della mia vita, di mia moglie, di mio marito? È Lui il re? È Lui? C'è una risposta nel mondo per questa domanda, però c'è una risposta anche molto popolare in chiesa. E io voglio parlare più di quello, mi voglio concentrare più in quello che noi crediamo e facciamo come chiesa. Questa mattina il pastore Stefano ha parlato anche del ruolo della famiglia cristiana nella società, perché c'è una differenza grandissima su quello che è il modello di Dio e quello che si vive oggi nella società. Però io voglio parlare più di quello che noi diciamo, pensiamo o facciamo come Chiesa. La risposta più popolare della Chiesa, o almeno in Argentina, lasciatemelo dire, almeno in Argentina è: l'uomo è il capo della famiglia. E io sono qua questa sera per dirvi che è sbagliato. E tranquillo pastore, non dirò nessuna bestemmia, tranquillo. Non è l'uomo il capo della famiglia. Se Cristo Gesù è il Kyrios, se Cristo Gesù è il re, l'autorità massima, tutto quello che ho detto, tutto quell'elenco lungo che ho detto prima, della nostra vita, allora è Lui il capo della nostra famiglia. O dovrebbe essere Lui il capo della nostra famiglia. Ci sono famiglie, però, lamentabilmente, anche dentro della Chiesa, almeno io parlo della realtà in Argentina, forse anche qua, non lo so, perché l'uomo è uomo in tutto il mondo, vero? Tutto il mondo è paese, diciamo sempre. Però ci sono famiglie dove il capo è l'uomo. Qua si fa quello che dico io sono l'uomo, io comando qui. E così funzionano come famiglia. E sappiamo bene come finisce. Però ci sono famiglie dove l'autorità massima è la donna. E andrà a finire peggio. So che molte donne diranno, ma tu sei donna, com'è che dice quello? Sorelle, ve lo dico, se la donna è il capo della famiglia andrà a finire peggio ancora. Ma ci sono pure famiglie dove i figli comandano, dove il capo della famiglia non è neanche l'uomo né la donna, sono i figli. E ancora peggio. Andiamo, come si dice qua in Italia, dalla padella alle braccia. E ci sono famiglie ancora più complicate, ancora più complicate. Ci sono famiglie dove non c'è un capo. Ognuno fa quello che gli viene in mente. Ognuno fa quello che vuole. Una anarchia totale. E questo è terribile. Perché non è l'ordine di Dio per la famiglia. Non riflessa quello che è il modello di Dio per la famiglia. Allora, chi comanda? Chi è il capo della tua e della mia famiglia? Anzi, vi faccio un'altra domanda. Quanti membri ci sono nella tua famiglia? Tu lo sai? Io lo so, io ho una famiglia tipo, si dice in Argentina, un marito, moglie e due figli soltanto. Siamo quattro, una famiglia tipo. Però quanti integranti ha la tua famiglia? Per la matematica di Dio, io che ho una famiglia tipo, non sommiamo, non facciamo quattro, facciamo cinque. E tu sai quanti integranti ha la tua famiglia. Aggiungi un altro, perché non sono solo quelli. Gesù vuole essere un integrante nella tua famiglia. Non lo lasciamo fuori. Lui vuole essere parte della tua famiglia. Lui è parte della tua casa. Però a volte lui deve fare come il boss in incognito. Avete visto quel programma? A volte è capitato che pure io l'ho visto, che quel padrone di quella ditta, quel proprietario di quella ditta deve fare l'incognito per vedere come funziona questa ditta. A volte Gesù deve fare l'incognito per capire come funziona questa famiglia, perché non mi danno spazio. Non dico che tutti facciamo questo, però c'è una gran parte della Chiesa che fa questo. E per quello il Signore ci vuole parlare, per quello dobbiamo tornare al suo modello, dobbiamo tornare alla sua parola. Prima Corinzi 11:3 dice: ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo e che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. C'è un ordine. C'è un ordine. Il capo di ogni uomo, chi è? Cristo. E invece l'uomo è capo di chi? Della donna. Allora non è vero che l'uomo è capo della famiglia. Cristo Gesù è il capo della famiglia. L'uomo, anche se ci piace o meno a noi donne, è capo della donna. Entrambi i genitori sono l'autorità della famiglia. La Bibbia dice onora tuo padre e tua madre, non dice onora soltanto il tuo padre, dice onora entrambi i genitori. Allora insieme sono l'autorità nella famiglia. E per quello ci vuole mettersi d'accordo anche. È molto impegnativo, è molto importante. Mettersi d'accordo per essere capo, per essere autorità insieme della famiglia, dei figli. Però chi è il capo maggiore? Cristo Gesù. Cristo Gesù. Andremo a leggere adesso quello che l'Apostolo Paolo ha scritto sulla famiglia. Ha dato soltanto quattro raccomandazioni, molto semplice, una frase per ogni integrante della famiglia, molto semplice ma molto molto chiaro. è molto molto importante. Andremo a leggere Colossensi 3, del 18 al 21. E disse così: mogli, siete sottomette ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Chi è chi parla qui? Chi è il capo della famiglia? Gesù. Allora Gesù dice questo: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Chi parla? Gesù. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è gradito al Signore. Chi ha parlato? Gesù. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggiano. Chi è che ha parlato anche questo? Chi ha detto questo? Gesù. È vero che è stato scritto dall'Apostolo Paolo, però in nome di chi ha parlato l'Apostolo Paolo? In nome di Gesù. Efesini 4,17 dice: questo dunque io dico e attesto nel Signore. Lui non parla da se stesso. L'Apostolo Paolo non ha parlato da se stesso. Il Signore, il capo, il Kyrios, lui è l'autorità e lui ha stabilito questo ordine per la famiglia. Possiamo essere d'accordo o no, o meno, ma lui è il capo, è lui chi comanda e non noi. Quando noi compriamo una lavatrice nuova a casa, o una lavastoviglie, un macchinario, la prima cosa che facciamo quando la installiamo lì a casa è andare a guardare che cosa? Il manuale dell'istruzione, no? Per capire come funziona, per poter sfruttarlo al massimo a questo macchinario. Dobbiamo andare a vedere cosa dice chi ha creato, chi ha disegnato questo macchinario, perché altrimenti possiamo sbagliare, possiamo rovinarlo quando è ancora nuovo e ci serve per tanto tempo. Lo stesso ci accade a noi. Noi dobbiamo andare al nostro manuale di istruzione. Qual è il nostro manuale di istruzione? Chi è che ci ha creato e ha lasciato anche tutte le indicazioni che noi abbiamo bisogno per sapere come funzionare meglio? Chi è? Il Signore, il Signore. Quindi la Bibbia è il nostro manuale di istruzione. Però andremo a vedere ogni integrante della famiglia. E per questo, in particolare, per questo io mi vorrei appoggiare in altri versetti anche, non solo in quello di Colossensi, ma anche a Efesini e anche quello che ha scritto l'Apostolo Pietro, in prima di Pietro. Saranno tutti qua dietro. Allora, io li leggo a tutti e tre. E parlo prima alle mogli, perché questo è l'ordine che ha fatto anche Dio, è stabilito così, ci ha parlato a noi per prima. Forse è perché dobbiamo prestare attenzione, forse è perché a noi donne facciamo un po' più di fatica di ascoltare quello che Dio dice, o semplicemente perché prima le donne, perché così corrisponde, non lo so, vedete ognuna che cosa pensa. Però io vi chiedo adesso, e io per prima, fra voi sorelle, ascoltiamo bene adesso cosa Dio ci dice, perché il regno di Dio è in gioco. Gesù Cristo è il Signore, è Lui che ci ama, Lui ha delle istruzioni per noi, ha parole per noi, ha delle parole per noi donne. Lui vuole il bene della nostra vita, Lui vuole il bene del nostro rapporto di coppia, Lui vuole il bene dei nostri figli. Il Signore Gesù che vuole il bene anche dei nostri nipoti quando li avremo, Lui ci parla in questa sera e vuole che noi li ascoltiamo. Gesù pure vuole il bene di questa società E se noi ascoltiamo quello che Lui ha da dirci, anche questa società sarà benedetta per mezzo di noi, per mezzo della famiglia, della Chiesa. Colossesi 3,18 dice: «Moglie, siete sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore». Efesini 5,21: «Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo». «Moglie, siete sottomesse ai vostri mariti come al Signore». Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. E più avanti il versetto 33 dice: «E la moglie deve rispettare suo marito». Prima di Pietro 3, dell'1 al 4, dice: «Anche voi, moglie, siete sottomesse ai vostri mariti perché, se anche se ve ne sono che non ubbidiscono la parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nel intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande valore». Questo ci dice il Kyrios, il Signore, il capo. Noi donne dobbiamo sottometterci ai nostri mariti. È così che Lui lo ha disegnato, è così che Lui lo ha stabilito e è così che funzioniamo bene. Non c'è una cosa più sbagliata quando la donna vuole prendere il ruolo che Dio ha dato all'uomo, quando capovolge e prende lei l'autorità in casa. Non c'è una cosa più sbagliata, sorelle. Non è quella la nostra funzione, non è quella, non siamo stati creati per quello. Noi dobbiamo essere sottomessi ai nostri mariti. Tu puoi pensare: ma Mili, tu non sai chi è mio marito, tu non lo conosci, tu non vivi con lui, non abiti con lui per capire come è lui. Tu non sai che lui ha fatto delle cose sbagliate. Tu non sai che lui non è un bravo uomo. Tu non sai che lui non è neanche un buon padre. Forse tu non sai che lui non ha avuto neanche un buon esempio a casa sua per poter imparare a essere un bravo uomo. E non è semplice. Tu dici tutto quello perché è teoria, è bello, però tu devi vivere, abitare con il mio marito. Ma sorella, facciamo a modo nostro o facciamo a modo di Dio? Noi siamo donne e abbiamo sempre dei pensieri che sono giusti secondo il nostro giudizio. Però facciamo secondo il nostro giudizio o facciamo a modo di Dio? E Dio dice: sottometteti, sottometteti. E non dice la parola: se tuo marito è un bravo uomo, allora sottometteti, donna. Non dice questo. Dice soltanto: sottometteti. E dice anche una cosa che è molto importante. Lo ha detto tanto l'Apostolo Paolo come l'Apostolo Pietro. Si parla di rispetto. Sapete, ci sono diversi linguaggi dell'amore. Se tu vuoi che tuo marito si senta amato, sai che cosa devi fare? Sai che cosa devo fare io perché mio marito si senta amato? Lo devo rispettare. Lo devo rispettare. Il linguaggio dell'amore che l'uomo capisce è il rispetto. Per quello, donne, amate, care, rispettiamo i nostri mariti e sottomettiamoci a loro. Se tu fai quello, Dio sistema tutto l'altro, tutto l'altro. C'è anche per i mariti, non solo per noi. Colossensi 3:19. E voi mariti, amate le vostre mogli e non siate duri nei loro confronti. Efesini 5:25 al 33. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa fino a sacrificare la sua vita per lei. È così che i mariti dovrebbero trattare le proprie mogli, amandole come il proprio corpo, una parte di se stessi. Dato che moglie e mariti sono un solo essere, chi ama sua moglie ama se stesso. Nessuno ha mai odiato il proprio corpo, anzi, ognuno di noi se ne prende cura in tutti i modi, proprio come Cristo si prende cura del proprio, la Chiesa, di cui noi tutti facciamo parte. Che il marito e la moglie sono un solo corpo è dimostrato dalle scritture che dicono: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Perciò ripeto, l'uomo deve amare sua moglie come ama se stesso. Prima di Pietro 3:7, anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Qua ci parla di un amore sacrificale. Gesù ha amato la Chiesa fino a dare la sua vita per lei. E così, mariti, vi chiede il Signore di amare le vostre mogli, fino a dare la vita. Un amore sacrificale. Dovete amare le vostre mogli come amate i vostri propri corpi, come amate a voi stessi. Vi chiedo, amatevi a voi stessi, perché così dovete amare le vostre mogli. Imparate a amare, amatevi voi stessi. Secondo questi versetti, l'amore ha cinque linguaggi, cinque espressioni diverse. La cordialità, la gentilezza, perché dice non essere duro con tua moglie. Dovete trattare le vostre mogli con delicatezza, come un vaso più delicato e fragile. Anche un altro linguaggio dell'amore è l'abnegazione, l'altruismo, che è tutto l'opposto all'egoismo, come Cristo ha amato e si è sacrificato, dare la vita per la moglie. Anche dovete amare con apprezzamento, che è l'opposto di odiare o disprezzare. Nessuno ha mai odiato il suo proprio corpo. Anzi, prendiamo cura di noi stessi. Dovete apprezzare le vostre mogli. Dovete amarle anche con cura, con sostegno, con difesa, con tutela, con assistenza. Il marito che protegge, il marito che fa cura della donna, che nutre, e non solo nello fisico, ma anche a livello emozionale, a livello spirituale. Voi mariti siete sacerdoti della vostra casa, sacerdoti delle vostre mogli e dei vostri figli, ma dovete anche fare cura del livello affettivo, del livello dell'anima emozionale. E c'è un altro aspetto, che è l'affetto sentimentale, l'affetto romantico. Anche di questo dovete mettere impegno, perché noi donne abbiamo un altro linguaggio dell'amore e abbiamo bisogno di sentire anche romanticismo, anche sentire questo amore sentimentale. Non basta con che voi dite, ma lei sa che io la amo, e non ho bisogno di farselo ricordare ogni giorno, non ho bisogno di avere qualche delicatezza, qualche particolare. No, sì, per noi donne è importante, quello è il linguaggio delle donne. Voi uomini dovete imparare come capiscono e percepiscono l'amore le donne, e noi donne dobbiamo capire come l'uomo percepisce l'amore. C'è tanto per dire, c'è per dire dei figli, c'è per dire dei genitori, però forse lo possiamo lasciare per un altro momento. Però sicuramente voi vi state pensando, ma come si fa questo, Mili? È troppo difficile. Come si fa? Io voglio leggere per concludere con voi un versetto che è in Filippesi 2, in realtà è più di uno, del 2 all'11. In questi versetti io vi rispondo come si fa. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà estimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Avete in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, il Kyrios, il Capo, alla gloria di Dio Padre. Secondo questi versetti ci sono due movimenti qua. C'è un movimento che discende, un movimento che va verso il basso, e c'è un movimento che ascende, che va verso l'alto. Cristo Gesù è il nostro esempio. Dice la parola di Dio che Lui ci ha lasciato esempio per ogni cosa. E noi dobbiamo seguire questo esempio. Lui, che era Dio, che è Dio, non si è afferrato gelosamente a questa sua condizione di Dio, e per amore di noi ha voluto scendere. Il Creatore si è fatto creatura per amore di noi. Chi di noi vorrebbe lasciare di essere una persona e diventare un cane, una formica? Nessuno lo vorrebbe fare. Ma sapete che la distanza fra noi e un cane, una formica, non è neanche paragonabile alla distanza che Dio ha trascorso per lasciare di essere Dio creatore e diventare creatura, uno come Lui stesso aveva creato. Lui si umiliò, si è umiliato, ha sceso. E dice la parola che noi dobbiamo avere lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio come cosa a che aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Rinunciò a se stesso, svuotò a se stesso per prendere forma di servo. Sorella, quando tu pensi che è molto difficile amare il tuo marito, svuota te stessa, prende forma di serva. Fratelli, quando voi pensate che la vostra moglie non è quello che voi aspettavate, non è quello che desideravate, umiliati, svuota te stesso, scende. Quando tu, sorella, dici: ma mio marito non è giusto, questo che lui fa non è giusto, e anche se è vero e è così, scegli scendere, umiliati, fate serva. Perché quando noi scegliamo fare quello che Gesù ha fatto, quando noi scendiamo, facciamo questo movimento di discesa, discesa verso il basso, chi è che ci innalza? Cosa abbiamo letto qua? Chi? Gesù si è umiliato, ha lasciato di essere Dio, ha lasciato di essere creatore per farsi creatura, per farsi umile come servo. E quando è stato in quella condizione di servo, dice, non era abbastanza, lui ancora si umiliò di più, fino alla morte. E dopo, quando si è umiliato fino alla morte, ha detto, non è abbastanza, fino a morte di croce, la peggiore di tutte le morti, la morte più vergognosa. Lui si svuotò, asceso. E chi è chi dopo lo ha innalzato e gli ha dato un nome che è sopra ogni nome? Chi è? Sorella, quando tu ti umili, il Signore ti innalzerà. Fratello, quando tu ti umili per amore di tua moglie, per amore dei tuoi figli, per amore della tua famiglia, il Signore ti innalzerà. E se il Signore innalza, chi ci potrà far scendere? Però è buono che sia Lui che ci innalza e non noi a noi stessi. A volte noi donne diciamo, no, ma io ho ragione e questo si deve fare come io penso. E non è giusto questo che mio marito sta facendo. Sai, non dirlo neanche a lui, non serve. Vai a Dio. Vai al Signore, piange davanti al Signore, di questo non è giusto, questo non, però sceglie. Il pastore Mirko ha fatto molte prediche che parlano delle scelte che noi facciamo. E lui viene predicando di questo tante volte, e è vero, tutto dipende dalle nostre scelte, tutto. Io posso scegliere continuare con i miei ragionamenti, con i miei pensieri, o posso scegliere fare quello che Dio vuole, che io faccio, per prima. Perché non è che io devo pensare, ma quando mio marito farà quello che Dio dice, allora io farò quello che Dio dice nella sua parola. Non è così, sorelle. Non è così, fratelli. Dobbiamo fare noi per prima. Mi devo umiliare io, devo prendere l'esempio di Cristo Gesù, e quando lo faremo il Signore sistemerà ogni cosa nella nostra casa. Mi ha mancato il tempo per parlare dei figli, mi ha mancato il tempo per parlare dei genitori, però sicuramente potrà essere un altro momento. Noi amiamo la nostra casa, amiamo la nostra famiglia, però a volte non la amiamo bene. Non la amiamo come Dio vuole che la dobbiamo amare. A volte non amiamo i nostri figli correttamente, come Dio vuole che noi li dobbiamo amare. A volte siamo troppo sopraprotettivi dei nostri figli, soprattutto dei figli maschi. Ho visto che le mamme italiane fanno questo con i figli maschi. E non è buono, ma neanche è buono lasciare i figli da soli. Non è neanche buono quando stanno crescendo, quando iniziano in un'età dove iniziano a guardare, i ragazzi guardano le ragazze i ragazzi. Dobbiamo essere vicini a loro, non li possiamo lasciare da soli. dobbiamo essere vicino ai nostri figli. Dio ha un ordine per la nostra famiglia e c'è tempo per ogni cosa. Anche quello dice la Bibbia. Io vedo anche che c'è una generazione troppo grande che non si sposa, forse perché sono i maschi troppo coccolati delle mamme e stanno bene a casa, ma anche vedo un'altra generazione troppo giovane per iniziare con un fidanzamento. Il fidanzamento è una cosa molto speciale e dobbiamo prenderla come Dio lo vede. Il fidanzamento dovrebbe essere il tempo giusto per preparare tutto per il matrimonio, perché se mi sono fidanzata è perché so che questa è la persona che Dio vuole per me. E non dovrebbe neanche, non dovrebbe, i ragazzi non dovrebbero fidanzarsi per provare se sarà questa la ragazza giusta o questo il ragazzo giusto. Se andate a Dio, se chiedete a Lui, non avrete bisogno di provare. Andate sul sicuro, perché Lui si farà, si rivelerà a voi. Non dimenticate questo, un movimento di discesa, umiliazione, essere servo. Questo è quello che Dio vuole per ognuno di noi nel suo ruolo, nel suo posto. Per i figli, per i genitori, per il marito, per la moglie. Mettiamoci in piedi adesso, alziamoci in piedi. Signore Gesù, Tu ci conosci. Tu sai come viviamo, Tu sai la condizione in che è la nostra famiglia. E Tu sai anche qual è il modello Tuo per la famiglia. Signore, noi veniamo dinanzi a Te in questa ora a chiederti perdono per prima, per quello che non abbiamo fatto bene secondo la Tua volontà, ma anche chiederti aiuto. Signore, aiutaci a avere il medesimo sentimento che è stato in Te. Aiutaci a imparare a essere umili, a non voler avere la ragione, a non voler vincere a casa perché io ho la ragione. Questo non è Tuo, Signore, questo non è il Tuo spirito, questo non Ti appartiene, Signore. Aiutaci, dobbiamo imparare la umiltà, Signore, e vogliamo camminare come Tu, Signore, vuoi che camminiamo. Vogliamo condurre le nostre famiglie come Tu vuoi, come Tu lo hai stabilito, perché così funzioniamo bene. Signore, quando facciamo quello che noi vogliamo, le cose non vanno bene. Ma vogliamo fare come Tu vuoi, Signore. Io voglio amare e rispettare al mio marito come Tu vuoi che io lo rispetto. E mi voglio sottomettere di volontà mia, Signore. Voglio essere sottomessa a Lui, perché così Tu lo hai stabilito. Io non lo capisco tutto, però se Tu lo hai detto, così va bene. Signore, io Ti chiedo che i mariti presenti qua possano amare le sue mogli con un amore sacrificale, come Tu lo hai fatto. Tu hai amato la Chiesa, Signore, fino a morire per lei, e la morte di croce, non qualsiasi morte, morte di croce. Tu Ti sei umiliato fino alla morte di croce, Gesù. Dobbiamo imparare da Te, dobbiamo imparare da Te. Noi vogliamo amare i nostri figli come Tu vuoi che li amiamo, vogliamo essere vicini, vogliamo essere esempio per loro. Signore, non c'è una cosa che confonde di più ai figli che ascoltare i genitori dire una cosa e vederli fare un'altra. Signore, noi vogliamo essere esempio per i nostri figli. Vogliamo amarli, far cura di loro, essere vicino, otorgare tempo, chiacchierare con loro quello che è la Tua volontà per le loro vite. Signore, noi come genitori vogliamo onorare i nostri, e come figli vogliamo onorare i nostri genitori. E Signore, tu hai detto onora tuo padre e tua madre, non hai detto non mancare il rispetto, quello sarebbe un comandamento in negativo. Tu hai detto di più, hai chiesto di più, onora, onora. E noi vogliamo imparare a onorare i nostri genitori. Signore, io ti prego, venga il tuo regno su questa chiesa, venga il tuo regno sulle nostre famiglie, venga il tuo regno sulle nostre vite, Gesù. Tu sei il capo, tu sei il Kyrios, tu sei il Signore, tu sei chi comanda, tu sei l'autorità massima delle nostre vite. Ma non lo vogliamo dire con la bocca, Signore, lo vogliamo vivere, lo vogliamo sperimentare. Vogliamo che tu sei l'integrante più importante delle nostre famiglie. Vogliamo che tu gestisci le nostre case, le nostre vite, le nostre famiglie. Signore, i nostri figli non sono nostri, sono tuoi. Grazie Gesù, grazie, aiutaci, aiutaci in questa ora. Nel nome tuo, Signore. Amen.